Il Marocco è un paese in bilico tra tradizione e modernità, una constatazione che non riflette solo la vita pubblica, in cui l'emancipazione delle donne somiglia a qualcosa che non più giovani può ricordare quel socialismo reale d'oltre cortina di ferro, ma è una constatazione che prende vita anche nella libertà di espressione del paese, che seppur monca di un sistema radiotelevisivo privato, vede nella stampa scritta un gran fermento e dibattiti aperti sulle questioni più varie, dalla riforma del sistema elettorale alla riforma dei partiti politici fino ai dibattiti sul terrorismo internazionale. Ecco perché è qui in Marocco, e in particolare a Marrakech, che ha luogo la conferenza internazionale in vista del secondo round del World Summit on Information Society, il summit mondiale della società dell'informazione, che avrà luogo a Tunisi nel novembre del 2005. Ricordiamo che il primo round di questo summit aveva avuto luogo a Ginevra nel dicembre del 2003 e ricordiamo pure che al centro del dibattito, che raccoglie i rappresentanti dei governi di tutto il mondo, ma anche i rappresentanti di tutte quelle organizzazioni che a livello internazionale si occupano di comunicazione, ecco, al centro del dibattito c'è proprio l'abbattimento del cosiddetto muro tecnologico, il digital divide, che divide i paesi del nord da quelli del sud del mondo. La conferenza è stata voluta fortemente dal re Mohammed VI in partnership con una organizzazione non governativa, Orbicom, da tempo attiva sul piano della libertà di espressione. Secondo il ministro delle comunicazioni Nabil Ben Abdallah, focus del summit di Marrakech è la valutazione delle risoluzioni di Ginevra, ma anche l'ambizioso obiettivo di determinare le condizioni per portare alla riduzione di questo digital divide. Tra i temi anche il ruolo dei media nella società dell'informazione, la libertà di espressione, internet e la sicurezza su internet, la cultura e non da ultimo il ruolo delle donne nei media. Insomma, un lungo round nel quale i media comunitari porteranno avanti istanze che riguardano anche la questione della commercializzazione delle frequenze, un fatto giudicato dai più come inammissibile, considerato che le frequenze elettromagnetiche non sono infinite, come l'acqua che beviamo, e pertanto devono essere considerate come un bene inalienabile della società. Marrakech dunque come tappa fondamentale verso Tunisi, dove i cyber dissidenti continuano a finire in carcere e dove la censura del presidente Ben Ali è ancora, allo stato attuale, una delle peggiori nella regione nordafricana.